Buonasera a tutti, benvenuti da Pino Fasciano e l'Ora del Wrestling. Questa sera c'è una signora intervista, una grande intervista con un gentilissimo ospite, serio professionista, gentile e disponibile. Questa intervista sarà disponibile su Spotify, Amazon Music e per podcast e le maggiori piattaforme digitali. In un secondo momento sarà disponibile su dandyradio.net e Radio Wi-Fi Official. .it. Mi sono preso un minuto, chiedo perdono e chiedo scusa al nostro ospite. C'è un grandissimo ospite, un signor ospite. Tracker, grazie di aver accettato il nostro invito. Chissà che sia la prima, ma poi l'ultima delle nostre promozioni. Spero che ci sarà una prossima volta. Non perdiamo tempo, Tracker. Tracker, sei uno dei nomi di punta del Bologna Wrestling Team. Infatti, sei campione di coppia insieme a Cannonball Jason. Come vivi questa nuova fase della tua carriera con l'arrivo in AWS? All'arrivo in AWS è dovuto da una collaborazione che è nata tra me e loro già ad agosto dell'anno scorso. AWS aveva bisogno di qualcuno che tirasse su anche un po' la qualità degli spettacoli e mi hanno chiamato. Conoscevo diversi personaggi e personalità all'interno del roster che mi hanno portato a lavorarci insieme. Io la vedo come un ottimo campionino di lancio per loro, per avermi comunque nel roster e comunque una buona possibilità per farsi vedere in zone che non sono mie. Ok, Tracker, andiamo avanti. Prossima domanda. Il pubblico ti conosce specialmente come tag team partner di Cannonball Jason nei Fat Machine Guns, se non ho detto male. Quanto ti ha formato quell'esperienza? Allora, i Fat Machine Guns sono nati la bellezza di 7 anni fa ormai, perché si parla del 2018. A me il wrestling di coppia è sempre piaciuto ed è sempre piaciuto moltissimo. E aver trovato un partner come Jason ha soltanto aiutato a sviluppare questa passione. Non è un match singolo, non è un match a tre, non è un quadrangolare, non è una battle royale. È un match a squadre che è un lavoro molto più complicato. Questo sicuramente. Ed è comunque, diciamo, la parte più divertente del wrestling, secondo me. Ok. Perfetto. Tracker, torniamo un attimo. Vabbè, all'inizio siamo un poco tutto domande sul tuo sodalizio con Cannonball Jason. Ti voglio chiedere, prima di tutto, già accennato nella precedente risposta, però te la faccio comunque la domanda. Come è nato il vostro sodalizio e se è nata anche una profonda amicizia? Allora, per lavorare insieme a livello di tag team non si può essere solo colleghi, sia chiaro. Con Jason abbiamo viaggiato insieme, abbiamo diviso la macchina, abbiamo diviso le camere, quindi è una cosa che non si porta soltanto sul ring. Ci sentiamo spesso e c'è da dire che all'epoca fui io a far debuttare Jason sul ring. Quindi diciamo che è un lavoro che si costruisce da molti anni. La questione di tutto ciò è che alla fine, lavorando insieme in Accademia del Bologna Wrestling Team all'epoca, ci siamo portati sui ring un po' di buona parte dell'Italia e su qualche ring europeo. Prossima domanda. Vi vedremo presto di nuovo sul ring insieme, magari in AWS, in Bologna Wrestling Team o in altre realtà. Noi siamo sempre pronti a lavorare insieme, quindi faccio anche un appello per chiunque ci voglia, siamo il tag team più pesante d'Europa, davvero per quale motivo non chiamarci? difficilmente nella scena europea si trovano tag team che facciano un peso complessivo di oltre 300 kg. E noi siamo qua, siamo vicino a casa, perché non chiamarci? Dimmi un po' le qualità e cosa ti piace delle federazioni dove hai e stai lottando. Allora, principalmente Bologna Wrestling Team è stata la mia casa fino a dal 2017, 2016, 2017 in poi. A US mi piace il fatto che hanno iniziato e vogliono crescere. E per me lo sviluppo del wrestling in Italia è un obiettivo da qua a ancora molti anni. Per quel che riguarda invece Megastar, Megastar è il top che c'era. Che si è formato in questi anni. E tutte le altre federazioni con cui ho lavorato, comunque, da ognuno per qualcosa, a partire anche già da ICW, dove ho debuttato, ancora si parla del 2016-2015, con un altro personaggio, con tutta un'altra serie di storie. Sai benissimo che noi, per la maggior parte in Italia, siamo tutti quanti filo wrestling americano, WWE, AEW, TNA, comunque tutto wrestling nordamericano. E diciamo, come ti posso dire, egoisticamente non pensiamo ai sacrifici dei lottatori italiani. Ci vuoi dire, ovviamente nei limiti del possibile, i tuoi sacrifici per arrivare al punto della carriera dove ti trovi? Credo di essere stato chiaro, spero di sì. No, la domanda è chiarissima ed è una domanda lecitissima anche, che spesso rispondo durante le interviste. Spesso e volentieri sottovalutiamo il fatto che qui in Italia il lavoro del lottatore non è un lavoro full time, ma spesso un lavoro part time. Ci sono varie spese da sostenere e che quindi tutti quanti, o almeno buona parte di noi, affianca un altro lavoro. Vuol dire tanti fine settimana persi sulla strada a lottare, a cercare le palestre, vuol dire aver perso, non è neanche una perdita, non possiamo neanche definirla tale perché lo si fa, però vuol dire tante ore in palestra, tante ore sulla strada, tanti weekend passati distante da casa e comunque tante ore di sonno perse perché lottiamo la domenica e lunedì mattina alle 6 la sveglia suona. Perfetto, e Tracker, ti ringrazio per aver risposto perché comunque è un messaggio, mi faccio portavoce ovviamente di noi fan che seguiamo prevalentemente la WWE, la AEW, la TNA, il wrestling nordamericano e comunque ci dimentichiamo dei vostri sacrifici. Ti ringrazio per il messaggio che hai dato. Andiamo avanti, Tracker. Il pubblico ti identifica come un lottatore old school, ti preciso old school, intendo dire potenza, concretezza, pochi fronzoli. È un'identità voluta o il tuo vero modo di essere? Ovviamente su ring, ovviamente. Allora, old school in realtà ci manca tutta la parte spettacolare. C'è tanta potenza perché fisicamente ci sono. Ho sfruttato quella per tutta la carriera, anche in sport precedenti, ho solo ed esclusivamente sfruttato la forza fisica. Per quel che riguarda la poca tecnica, ci sta, non è quello che ho mai cercato. Piuttosto mi piace spettacolarizzare le cose, mi piace costruire una cosa che la gente veda e che possa riconoscere un movimento, un taunt, un qualcosa che la gente possa ricordarsi di me per quello, che è una cosa che momentaneamente è molto sottovalutata nel panorama, soprattutto italiano, ho notato. Mettiamola così, mancano Tracker, delle volevo firme. ripeti, scusami, ti ho interrotto, ripetimi. Mancano delle firme. Ah, firme. piccolo panorama, mancano proprio film su tanti lottatori. Ah, è stato chiaro. Passo alla prossima. Questo secondo che la recupero. Qual è stato il match più impegnativo della tua carriera finora, sia dal punto di vista fisico che emotivo? Ma allora, in realtà posso dartene due. La finale del migliore d'Italia contro Red Scorpion un paio d'anni fa, dove persi a Bologna, e a livello emotivo 99% la vittoria dei titoli di coppia alla fine del torneo di assegnazione della Wrestling Megastar. Devo aggiungere, che cosa ti è rimasto di quelle esperienze? Sicuramente la finale del migliore d'Italia è stato un match fantastico, era quello che si pensava e si sognava di fare da anni ed è venuto fuori un gran match. Mentre la finale di titoli di coppia, diciamo che è stato un traguardo che si inseguiva da sempre. Ci mancavano delle cinture alla vita per segnarci come coppia e ci siamo arrivati. Abbiamo portato a casa le cinture. Quindi da là possiamo dire ok, siamo un tag team che è stato titolato. Trager, piccola punzecchiatura polemica, non ti preoccupare, niente di personale, niente di cattivo. Ti voglio chiedere, considerando la tua comunque lunga carriera, mi permetto di dire, spero che non mi contraddirai, ti consideri un mentore per i giovani? Hai mai pensato un giorno voglio fare l'allenatore? Allora, io spero che ci siano dei giovani che mi vedano come tale. Su qualcuno ho delle idee, però nessuno me l'ha mai fatto notare o me l'ha mai detto apertamente. E perché no? Allenare non è una cosa impossibile. Penso di potergli tramandare qualcosa alle generazioni, di poter tramandare qualcosa alle generazioni che stanno arrivando. Non ha bisogno della mia pubblicità, ma la faccio lo stesso perché la sento dal profondo del cuore. Seguite Tracker e vi posso assicurare che non avevo il piacere di conoscerlo, ma è da oggi che lo conosco da pochi giorni, e devo dire la verità, per quel poco che, vabbè, ovviamente sto parlando mentre stiamo nel corso dell'intervista, devo dire la verità, è un lottatore veramente interessantissimo, e non sono stato neanche influenzato da sue precedenti interviste, diciamo, senza, non è che sto a fare polemiche, interviste televisive, perché ti ho visto pure, però non mi sono voluto fare influenzare da questo, quindi sono super partes, non posso dire che sto favorendo Tracker comunque. Spero che sei riuscito a sentire quello che ho detto. Sì, ho sentito tutto perfettamente. Ti ringrazio, Giuseppe, ti ringrazio. E comunque supportate e sostenete Tracker. Andiamo avanti. Scusami un secondo. Ecco, sì, ho ritrovato. Scusami, l'avevo perso delle domande. In wrestling italiano vivo un momento di rinnovamento, di, diciamo pure, di new generation, di gloria, tra nuovi nomi e federazioni emergenti o che si stanno solidificando. Cosa manca oggi alla scena italiana per fare il salto di qualità? Allora, probabilmente la continuità. Quello che ci manca tanto è la continuità. E secondo me l'idea che questo non è un passatempo, ma è un lavoro. Parliamoci chiaro, non tutti vedono quello che stiamo facendo come un lavoro. A me dà fastidio vedere che c'è chi lo tratta come il calcetto del martedì sera, che non è proprio così, non è assolutamente così. Io dico aprire i denti per tutti quelli che possono vederla questa intervista. È una cosa che personalmente, non soltanto a Tracker, ma a Luigi Rigon non va bene. Esco dal personaggio, Giuseppe, scusami, ma scusa, io adesso, senza, ti ripeto, è mia personale, io adesso ti, come si dice, lancio la pietra, però non nascondo la mano, ovviamente mi prendo le responsabilità. Tracker, che cosa può fare? Per parlo in generale, mi faccio portavoce, ti ripeto, tiro la pietra e non nascondo la mano, quindi mi prendo tutte le responsabilità. Tracker, che cosa può fare? Per convincere me stesso o chi pensa veramente che, come si dice, non ti offendere, sia chiaro, l'avrei detto a chiunque, che invece l'italiano è come se fosse scapoli e ammogliati, che dovesse essere stato chiaro, comunque mi prendo tutte le responsabilità. Sì, è stato chiarissimo, secondo me è una presa di posizione e iniziare ad investirci sopra già noi lottatori, cioè iniziamo a pensare di avere dei bei costumi, dei bei booth, studiare dei personaggi interessanti, non focalizziamoci sulle cose che possono essere quelle che al momento si presentano meglio, ma lavoriamo su delle cose che possono essere riconoscibili al pubblico. Ripartiamo dal discorso di prima. Un movimento, un modo di fare, una caratterizzazione più pesante di quello che è un personaggio. Ed è questo che secondo me manca in questo momento nel panorama nostro. Ci sono veramente pochi personaggi che posso contare sulle dita di una mano, che la gente li guarda e si ricorda dopo averli visti la prima volta. E sto parlando di persone che comunque girano. Solo per questa volta utilizzi il tuo nome anagrafico, solo per questa volta. Ti ringrazio Luigi che hai risposto in maniera professionale senza prendertela. Però ti ho voluto pure dare l'opportunità di poter rispondere a tutti noi che pensiamo veramente, come si dice, vabbè, te l'ho detto, non è che lo voglio ripetere. E mi sono preso le responsabilità di quello che ho detto. Grazie ancora Luigi di aver risposto. Andiamo avanti. No, sono contento. Dimmi. Scusami. Hai avuto varie esperienze in tante federazioni. Secondo te servirebbe più collaborazioni in generale, indipendentemente se da nord a sud, centro? Allora, qua lancio il sasso io e ti dico di sì. Non nascondo la mano, secondo me bisognerebbe sedersi di più a tavolino e parlarsi. Non vivere di invidie, non vivere di prepotenza in realtà a volte. Ma secondo me la possibilità di collaborare ci sarebbe, ma a volte viene tralasciata. Diciamo che c'è un po' di presunzione in alcune realtà che portano a non collaborare con altre, quando invece si potrebbe fare benissimo una cosa unica, o non dico unica, ma comunque scambiarsi i lottatori, farsi vedere in giro e comunque collaborare in maniera molto costruttiva. Come riesci a gestire ovviamente gli impegni lavorativi e personali con i tuoi allenamenti? Metto tante ore a disposizione di questo, cioè si finisce di lavorare, si va ad allenarsi, si torna a casa, si mangia e si dorme. E così anche per gli spettacoli, sai che hai un fine settimana in giro e ti organizzi per cercare di trovare tempo per tutto. Non sempre è facile, non sempre si riesce. Altra provocazione, ovviamente lancio il sasso e non nascondo la mano. Parlo a plurale, ovviamente. Tutti noi ti vorremmo vedere con una cintura in singolo. Magari, chi lo sa, proprio in AWS. È un tuo obiettivo o preferisci, come si dice, la regola, vabbè, i piccoli passi? Se arrivasse bene, se no, pazienza. Allora, parliamoci chiaro. Io al AWS sono già arrivato vicino. Sono stato sconfitto dal conte Max Stevenson all'epoca a Modena. E quindi sì, il titolo l'ho già visto e ci sono già arrivato proprio a pochissimo da conquistarlo. Punterei di più le cinture di coppia di AWS. Sono sincero, il titolo singolo sì, c'è, mi interessa. Come ho già portato a casa il titolo della Megastar, non vedo per quale motivo non portarne a casa altri. Però quello che vorrei adesso sono le cinture di coppia anche di AWS o comunque di qualsiasi altra federazione italiana. Tracker, guardati allo specchio, un ipotetico specchio, e pensa al Tracker agli inizi della sua carriera e al Tracker di oggi. Che cosa diresti al Tracker di inizio carriera e che cosa diresti al Tracker di oggi? Ah, quello di oggi in realtà ci faccio i conti tutti i giorni allo specchio e quindi non ho poco da dirgli in realtà. Quello di prima, che forse era ora di fare qualche passo più velocemente quando il tempo lo permetteva. Adesso sono passati più anni e potevo fare passi molto più veloci a inizio carriera soprattutto. E lavorare con la mentalità di adesso. Il tuo mi incuriosisce e ovviamente incuriosisce pure gli utenti che ascolteranno, guarderanno, vabbè, questa intervista. Il tuo, ovviamente, ring name Tracker, ovviamente rimanda ai camionisti, comunque a un ring name duro e puro. Da dove nasce il tuo ring name, il tuo ring name Tracker, parlo ovviamente. Allora, nasce dal fatto che la prima versione di Tracker doveva essere molto simile a un Kevin Nash, a un Diesel degli anni 90. Da lì però tutto ha preso una strada diversa, perché da Tracker il camionista abbiamo avuto il gorilla della strada, abbiamo avuto il camion umano, abbiamo avuto il Defect Machine Gun, e quindi sì, è stata un'evoluzione di un personaggio che aveva preso una piega diversa all'inizio carriera. Il fisico si è modificato e di conseguenza anche quello che andiamo a proporre, che vado a proporre. Consideriamo che all'inizio carriera ho preso quasi 30 kg, quindi... Stavo dicendo, facciamo di nuovo un passo indietro con la macchina del tempo. Nel Bologna Wrestling Team / Wrestling Megastars hai affrontato alcuni dei migliori lottatori italiani, scusami. Qual è l'avversario che ti ha messo maggiormente in difficoltà e che rispetti particolarmente? Momentaneamente l'avversario più difficile, gli avversari più difficili con cui ho lavorato sono stati sicuramente Dark Scorpion per l'esperienza, sicuramente Drake Destroyer per la stata fisica, sicuramente anche lottatore di calibro internazionale come Chris Master, e a livello carismatico quando lottavamo contro King Danza. Come vivi il passaggio da lottatore tag team a lottatore in singolo? cambia qualche cosa nella tua preparazione atletica e nella psicologia, nella psicologia dei match? Allora, sicuramente affronto tag team in maniera più divertente, perché le dinamiche tag team sono molto di più. Mi piace di più quello che si può andare a costruire in un tag team che non è un match singolo. E per tutto il resto dei punti li affronto tutti nella stessa maniera. Dobbiamo sempre pensare che comunque la preparazione ci serve quando montiamo sul ring e quindi è inutile cambiare il tipo di preparazione tra una cosa e l'altra. Ti definisci o comunque sei o comunque ti definisci o comunque sei un lottatore che parla con i fatti su ring. Pensi che oggi ci sia troppe gimmick e poca sostanza nel wrestling italiano? Allora, sinceramente a me la gimmick a me piace, cioè è quello che porta le persone ad innamorarsi anche del personaggio, del lottatore. Mi preoccupa di più quando tutto verrà standardizzato, se tutto viene standardizzato, vedersi davanti i lottatori che sono tutti uguali. Siamo in un mondo in cui non tutti possono essere Superman. Quindi sì, è giusto che si diversifichi e che ognuno prenda sulla sua fetta di pubblico, che ognuno prenda le sue preferenze, i suoi fischi. Non per forza dobbiamo essere tutti amati. Hai avuto infortuni significativi nel corso della tua carriera. Come li hai superati e cosa ti hanno insegnato? Allora, sinceramente, l'unica cosa dove posso dirti a livello di wrestling che mi ha creato più problemi è la schiena. Però, fortunatamente, ho un ottimo osteopata. E posso dirti sì, che la mia fortuna è proprio quella, che mi sistema quando ci sono dei momenti in cui ne ho assolutamente bisogno. Draghi, l'altra domanda polemica. Dimmi la verità, hai mai pensato a un ruolo extra ring? Comunque rimanendo sempre comunque nel wrestling, allenatore, addirittura di entrare nel team creativo o arbitro? Dimmi la verità, confessa, è la domanda delle 100 pistole. Ma potenzialmente allenatore, se dovessi scegliere un ruolo extra ring sarebbe quello. Allenatore o manager, mi piace anche fantasticare quando vedo lottatori che non hanno ancora un personaggio cosa possono fare e do consigli. Chi mi conosce sa che do consigli, non obbligo, ma do tanti consigli dietro le quinte. Quindi tutti quelli che hanno avuto a che fare con me, soprattutto in determinate realtà, sanno che se hanno bisogno di un qualcosa basta che chiedano. Parlo ovviamente da fan, ovviamente tiro la pietra e non nascondo la mano. Da quel poco che ti conosco, che ho sentito parlare di te, so che sei molto apprezzato nell'ambiente, per quel poco che ti conosco. Perciò veramente sono stato e sono contentissimo di aver avuto l'opportunità di intervistarti. Grazie ancora. Andiamo avanti alla prossima domanda. Secondo te, che ruolo hanno i social media oggi nella crescita e tra parentesi o nella rovina di un wrestling, specialmente in Italia? Allora, non avendo la televisione, in Italia social media fa tantissimo lavoro. Non avendo la possibilità di avere la televisione di avere il wrestling italiano in televisione, il social media aiuta tanto. Dopo sta ai lottatori stessi cercare di capire come arrivare oltre. Cioè, parliamoci chiaro, non è impossibile andare a finire in determinate realtà come possono essere i giornali e le televisioni locali. basta soltanto capire cosa vuole vedere il programma, cosa vogliono i programmi. Sono toglie che comunque un social media in questo momento è necessario per tutti, per avere almeno la crescita iniziale e per esporsi anche a un pubblico. Tracker, alla Gigi Marzullo, fatti una risposta, no scusami, sì, fatti una domanda, scusami, fatti una domanda e datti una risposta alla Gigi Marzullo, scusami, stavo confondendo. Ma domande in questo momento me ne faccio poche in realtà, perché quello che voglio adesso è vedere la crescita di quello che siamo andati a costruire io ed altre persone negli ultimi 10 anni. Vorrei vedere come si potrebbe sviluppare questa cosa. Un obiettivo è quello di avere rating in televisione o di avere comunque rating davanti nei grossi palcoscenici. Quindi la cosa migliore che possiamo fare è sfruttare o comunque impegnarci tutti per arrivarci. E Qual è stato il so che momento più nell'ambiente non emozionante? sono l'unico che pensa questo. Scusami, e so che nell'ambiente non sono l'unico che ha questo obiettivo. Scusa, Tracker, perché non avevo capito se avevi finito o no di rispondere. Scusami ancora, per fortuna che hai ripetuto e ti ringrazio. Qual è stato il momento più emozionante che hai provato davanti al pubblico? Ma probabilmente rientro dopo la pandemia. Perché sono rimasto fermo in quel momento, non dovevo rientrare, mi hanno convinto a rientrare e nel momento in cui sono rientrato è tornato tutto quello che si stava spegnendo nell'anno e mezzo di fermo. Parlo da fan e per fortuna sei ritornato. Grazie ancora. Di essere ritornato, parlo. Sono tornato parecchio perché siamo passati da non avere ruoli principali a portare a casa un mega star, un tipo di coppia, diversi main event. Quindi, sì, per fortuna sono tornato. Come si diversifica? Scusa, sì, vabbè. Che cosa c'è di diverso tra il tracker su Ring e il tracker barra Luigi nella vita privata? Ah, ti dico la verità, fondamentalmente nulla, perché come diceva Dwayne Johnson, The Rock e Dwayne Johnson e Dwayne Johnson e The Rock, siamo sullo stesso piano. Ho soltanto portato quello che sono nella vita reale, anche sul ring, in maniera più vistosa. Scusi, il messaggio promozionale. Allora, questa intervista sarà disponibile su Spotify, Amazon Music e Apple Podcast e le maggiori piattaforme digitali. Sarà successivamente disponibile su daddyradio.net e su radiowifiofficial.it. Seguite Tracker sui social media. Mi permetto di... vabbè, adesso ti do anche la parola per pubblicizzarti. Tracker, un momento egocentrico da parte mia. Concedimelo, credo di sì, hai detto sì, non l'ho sentito, ma hai detto sì. Adesso tocca a te farmi una domanda a me, ovviamente sul wrestling. Ma la domanda che ti faccio è come ti è partita la passione per il panorama italiano? Come detto prima, di solito noi siamo molto più portati a guardare il wrestling nordamericano, c'è chi poi guarda il giapponese, però il wrestling italiano è comunque un mercato strano anche per il fan. Allora, ovviamente sei libero di non credermi, ovviamente. Allora, fino praticamente al 2020, quando poi ho aperto il canale YouTube, poi vabbè, poi successivamente Twitch, vabbè, non ti sto a fare tutta la storia compagnia cantando. Praticamente io conoscevo, ti dico proprio la verità, conoscevo che esisteva solo l'Italian Championship Wrestling, diciamocelo. Non, come si dice, te lo dico con tutta la verità, però c'è stata l'opportunità di realizzare una prima intervista. Non ti faccio sempre ovviamente la storia, perché chi se la vuole andare a recuperare basta che poi va su YouTube, vabbè, vai Spotify, vabbè, tutte le piattaforme dove è presente l'ora del pressing. E mano a mano l'opportunità, intervisti qua, intervista giù, intervista su, nord, centro, sud, e praticamente mi sono appassionato anche io, e sono in effetti ho controllato con precisione, ho iniziato le interviste nel 2021, quindi fatti un poco tu, e sono credo ormai dovrei essere arrivato a 100 interviste ai lottatori italiani, indipendentemente da dalla federazione, un poco tutte quante, non mi è sfuggita nessuno, almeno un rappresentante per ognuno. Spero che ti ho soddisfatto. Sì, sì, vabbè, un ottimo risultato, 100 interviste in 4 anni. Poi, se mi chiedi se è mai venuto a guardare, se è mai andato, scusami, colpa mia, se è mai andato a guardare uno show, purtroppo solo nella mia regione, anche se ho avuto degli inviti fuori dalla Campania, ma solo in Campania a livello di show. Non me l'hai chiesto, ma era implicito che lo volevi sapere. Sì, no, beh, quello sicuramente. Scusami, colgo la palla al balzo. Secondo te, per supportare il wrestling italiano, oltre ovviamente è implicito andare a vedere gli show, secondo te è necessario comprare il merchandising, anche se è giusto pure dirlo, dove non c'è? Spero che sia stato chiaro. Se vuoi te la ripeto. Allora, sicuramente comprare il merchandising dei lottatori italiani aiuta, perché dà una spunta di professionalità anche a chi ancora non se la sente. E quindi ti direi di sì. Ed è una cosa che invito anche a tutti i lottatori che non ne hanno di farsi nel merchandising. Qualcosa di personalizzato che la gente veda che appartiene a te. Allora, ti avverto, ultime tre, okay. E poi ci salutiamo. Allora, terz'ultima. È sempre polemica, ovviamente. Stai benissimo, ti sarà arrivato comunque all'orecchio della resurrezione, usiamo questo termine, di NXT Europe, che poi sarebbe quello che a suo tempo era NXT UK, comunque di NXT Europe da parte della WWE. Domanda polemica, e però mi deve rispondere il tracker, non il tracker diciamo diplomatico, ma il vero tracker, e qui sta la domanda polemica. Secondo te, dal punto di vista del lottatore, abbiamo speranze veramente di vedere dopo, vabbè, il precedente di Fabian Aichner e Giovanni Vinci, di vedere un altro lottatore italiano lottare, in questo caso a NXT Europe? Secondo me il panorama è pieno di lottatori che potrebbero arrivarci. È solo che bisogna farsi notare adesso. Quindi secondo me sì, sono convintissimo di questa cosa. C'è posto anche per noi italiani? Penultima domanda polemica, e per i Fat Machine Guns c'è posto? Beh, credo di non avere, cioè, di non avere molte risposte da darti, se non che la risposta è sì. Ripeto, in Europa siamo i più pesanti e non credo che neanche negli Stati Uniti ci siano tag team così pesanti da poterci star dietro. Quindi secondo me la risposta è sì, c'è posto anche per noi. Ultimissimo, e poi social. Quali sono i tuoi obiettivi futuri? Sicuramente c'è lo spettacolo di Bovolone che andrà in scena il 5 di luglio. comunque di arrivare a farne ancora tanto di wrestling e di non fermarmi a breve. Non è un obiettivo vero e proprio, voglio soltanto vedere il mercato che cresce e capire come si potrà evolvere da qua ai prossimi anni e perché no, prendermi una fetta di quello che si è evoluto. Grazie Tucker, Tracker, scusami, stavo all'ultimo, stavo a fare la gaffa, perdonami, non l'ho fatto con cattiveria. C'hai 2 minuti per promuoverti, 2 minuti, prego, puoi promuoverti i social media, show, merchandising, tutto quello che vuoi, c'hai 2 minuti, prego, a te la parola. Allora, parliamoci chiaro, seguitemi sui miei social media, Unstoppable Tracker su Instagram. Purtroppo sono ignorante in materia, quindi non ne ho altri. Ci sono le mie magliette, le ultime taglie delle magliette del Gorilla della Strada e a breve arriverà del nuovo merchandising. E per tutte le federazioni italiane che vogliono dei lottatori pesanti sia in tag team che in singolo, sapete che i Fat Machine sono a disposizione, sia io che il Canyon Mongeason. Quindi basta che ci contattiate, i profili social sono, ripeto, hashtag Unstoppable Tracker e hashtag Canyon Mongeason. Grazie ancora a Tracker. Allora, l'ultima volta, questa intervista sarà disponibile su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, le maggiori piattaforme digitali. Anche, vabbè, ci voglio anche metterci pure per chi vive negli Stati Uniti anche su Pandora. Poi sarà disponibile su deadradio.net e radiowifiofficial.it. Seguite e sostenete Tracker, lo merita. Poi vabbè, seguito tra Bologna Wrestling Team, AWS, le prossime sue esperienze. Grazie ancora a Tracker. E poi buona serata a tutti. Ringrazio tutti gli utenti che seguiranno questa intervista. Da Pino Fasciano è tutto. Alla prossima, buona serata e buone botte a tutti. Grazie ancora a Ciao a Tracker. tutti.